9C. Ascolta e trasforma. Ieri ero libero. Ho risposto alle lettere che avevo ricevuto giorni fa. Ieri eravamo liberi. Abbiamo risposto alle lettere che avevamo ricevuto giorni fa. Stavo male. Ho preso le medicine che avevo comprato nel mio paese. Stavamo male. Abbiamo preso le medicine che avevamo comprato nel nostro paese. Faceva brutto tempo. Ho studiato la lezione che il professore aveva assegnato la settimana scorsa. Faceva brutto tempo. Abbiamo studiato la lezione che il professore aveva assegnato la settimana scorsa. Ero al ristorante. Ho visto la ragazza che tu mi avevi presentato un anno fa. Eravamo al ristorante. Abbiamo visto la ragazza che voi ci avevate presentato un anno fa. Ero in ritardo. Sono uscito di corsa perché avevo preso un appuntamento importante. Eravamo in ritardo. Siamo usciti di corsa perché avevamo preso un appuntamento importante. Avevo tempo. Mi sono deciso a leggere il libro che mi avevi consigliato. Avevamo tempo. Ci siamo decisi a leggere il libro che ci avevate consigliato.